Cari fratelli e sorelle, dopo le catechesi sui salmi e sui cantici delle lode dei Vespri, vorrei adesso dedicare i prossimi incontri del mercoledì al mistero del rapporto tra Cristo e la Chiesa, considerandola a partire dall'esperienza degli Apostoli alla luce del compito ad essi affidato. La Chiesa è stata costruita sul fondamento degli Apostoli, come comunità di fede, di speranza e di carità. Attraverso gli Apostoli risaliamo a Gesù stesso. La Chiesa cominciò a costituirsi quando alcuni pescatori di Galilea incontrarono Gesù, si lasciarono conquistare dal suo sguardo, dalla sua voce, dal suo invito caldo e forte: seguitemi, vi farò pescatori di uomini. Il mio amato predecessore Giovanni Paolo II ha proposto alla Chiesa, all'inizio del terzo millennio, di contemplare il volto di Cristo. Muovendomi nella stessa direzione, nelle catechesi che oggi comincio, vorrei mostrare come proprio la luce di quel volto si rifletta sul volto della Chiesa, nonostante i limiti e le ombre della nostra umanità fragile e peccatrice. Dopo Maria, riflesso puro della luce di Cristo, sono gli Apostoli, con la loro parola e la loro testimonianza, a consegnarci la verità di Cristo. La loro missione non è tuttavia isolata, ma si colloca dentro un mistero di comunione che coinvolge l'intero popolo di Dio e si realizza secondo il disegno di Dio a tappe storiche, dall'antica alla nuova alleanza. Ho detto in proposito che si fraintende del tutto il messaggio di Gesù se lo si separa dal contesto della fede e della speranza del popolo eletto. Come il Battista, suo immediato precursore, Gesù si rivolge anzitutto a Israele per farne la raccolta nel tempo escatologico giunto con lui. E come quella di Giovanni, così la predicazione di Gesù è al tempo stesso chiamata di grazia e anche segno di contraddizione e di giudizio per l'intero popolo di Dio. Pertanto, sin dal primo momento della sua attività salvifica, Gesù di Nazaret tende a radunare il popolo di Dio. Anche se la sua predicazione è sempre un appello alla conversione personale, egli in realtà mira continuamente alla costituzione del popolo di Dio che è venuto a radunare, purificare e salvare. Risulta perciò totalmente unilaterale e priva di fondamento l'interpretazione individualistica dell'annuncio che Cristo fa del regno nella teologia liberale, così riassunta dal grande teologo liberale Adolf von Harnack nelle sue lezioni sull'essenza del cristianesimo, dove nell'anno 1900 disse: il regno di Dio viene in quanto viene in singoli uomini, trova accesso alla loro anima ed essi lo accolgono. Il regno di Dio, sempre Harnack, è la signoria di Dio certo, ma è la signoria del Dio Santo nei singoli cuori. In realtà questo individualismo della teologia liberale è un'accentuazione tipicamente moderna nella prospettiva della tradizione biblica e nell'orizzonte dell'ebraismo in cui l'opera di Gesù si colloca, pur con tutta la sua novità, risulta chiaro che la missione del Figlio fatto carne ha una finalità comunitaria, è venuto proprio per unire l'umanità dispersa, è venuto proprio per raccogliere, per unire il popolo di Dio. Un segno evidente di questa intenzione di Cristo di radunare la comunità dell'Alleanza per manifestare in essa il compimento delle promesse fatte ai padri che parlano sempre di raccoglimento, di unificazione, di unità. Dico, un evidente segno di questa intenzione è l'istituzione dei dodici. Abbiamo sentito il Vangelo su questa costituzione dei dodici e leggo ancora una volta la parte centrale. Gesù salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che egli volle ed essi andarono da lui. Ne costituì dodici che stessero con lui e anche per mandarli a predicare e perché avessero il potere di scacciare i demoni. Costituì dunque i dodici sul Vangelo. Nel luogo della rivelazione, il monte, nel monte Gesù con iniziativa che manifesta assoluta consapevolezza e determinazione costituisce i dodici perché siano con lui testimoni e annunciatori dell'avvento del regno di Dio. E sulla storicità di questa chiamata non ci sono dubbi, non solo in ragione dell'antichità e della molteplicità delle attestazioni, ma anche per il semplice motivo che vi compare il nome di Giuda, l'apostolo traditore, nonostante le difficoltà che questa presenza poteva comportare per la comunità nascente. Il numero 12 evidentemente richiama le 12 tribù di Israele e rivela già così il significato di una azione profetica simbolica implicita nella nuova iniziativa, cioè di rifondare il popolo santo. Tramontato da tempo il sistema delle 12 tribù, la speranza di Israele ne attendeva la ricostituzione come segno dell'avvento del tempo escatologico. Scegliendo 12, introducendoli ad una comunione di vita con sé e rendendoli partecipi della sua missione di annuncio del regno di Dio in parole ed opere, facendo questo Gesù vuol dire che è arrivato il tempo definitivo in cui si costituisce di nuovo il popolo di Dio, il popolo dei 12 tribù che diventa adesso un popolo universale, la sua Chiesa. Con la loro stessa esistenza, quindi, i 12, chiamati da provenienze diverse, diventano un appello a tutto Israele perché si converta e si lascia raccogliere nell'alleanza nuova, pieno e perfetto compimento di quella antica. L'aver affidato ad essi nella ultima cena, prima della sua passione, il compito di celebrare il suo memoriale, mostra come Gesù volesse trasferire all'intera comunità, nella persona dei suoi capi, il mandato di essere nella storia segno e strumento del raduno escatologico in lui iniziato. In un certo senso possiamo dire che proprio l'ultima cena è l'atto della fondazione della Chiesa, perché dà se stesso e crea così una nuova una comunità unita nella comunione con Egli stesso. In questa luce si comprende come il risorto conferisca loro con l'effusione dello Spirito il potere di rimettere i peccati. I dodici apostoli sono così il segno più evidente della volontà di Gesù riguardo all'esistenza e alla missione della sua Chiesa, la garanzia che fra Cristo e la Chiesa non c'è alcuna contrapposizione, sono inseparabili, nonostante i peccati degli uomini che compongono la Chiesa. E pertanto del tutto inconciliabili con l'intenzione di Cristo, uno slogan di moda alcuni anni fa, Gesù sì, Chiesa no. Questo Gesù individualistico scelto è un Gesù di fantasia. Non possiamo avere Gesù senza la realtà che ha creato e nella quale si comunica. Tra il Figlio di Dio fatto carne e la sua Chiesa vi è una profonda, inscindibile e misteriosa comunità in forza della quale Cristo è presente oggi nel suo popolo e sempre contemporanea con noi e sempre contemporanea nella Chiesa costruita sul fondamento degli Apostoli, viva nella successione degli Apostoli, e questa sua presenza nella comunità nella quale Egli stesso si dà sempre a noi è motivo della nostra gioia. Sì, Cristo è con noi, il Regno di Dio viene.